Dai, accendi la bastarda. In bocca al lupo. In bocca al lupo, Jake. Su Rock Web Radio, Gianluca's Rock Selection. Benvenuti a questa nuova puntata di Gianluca's Rock Selection in versione intervista. Infatti, come avete già sentito, questa sera abbiamo un ottimo ospite che viene da Petrella Salto, provincia di Rieti, si chiama Andrea Salini, lo salutiamo intanto. Ciao Andrea. Ciao Gianluca, buonasera a tutti gli ascoltatori. Si è portato anche due collaboratori della band. questa sera. Allora, Andrea, sei qui per presentare il tuo disco. È un disco non freschissimo, ma comunque il tuo ultimo disco, che si chiama Maestrale. Esatto. E abbiamo appena sentito la canzone Indios, che è il numero uno del tuo disco Maestrale. Puoi in un certo senso già spiegarci la canzone, oppure facciamo così: ti presenti un po', poi magari parli brevemente del disco e poi ci commenti un po' Indios, il significato un po' di questa canzone, che parla comunque del Cile, mi pare di capire. Sì. Dunque, io nasco come chitarrista, con la grande passione della musica rock, e nel tempo questa passione è diventata una professione, e da qualche anno mi ha visto coinvolto anche nella produzione di brani miei, dei quali ho scritto sia la musica che le parole. E come hai detto tu, questo è il secondo album Maestrale, uscito nel 2012, un album autoprodotto, che racchiude una manciata di canzoni che io ho definito un po' una sorta di diapositive. Sicuramente un album, come ho già detto in altre interviste, più personale, forse perché i musicisti col tempo trovano il coraggio e i mezzi anche per parlare un po' delle cose loro. Il primo album, Dr. Hyde e Mr. Hyde, era più un album incentrato sugli stili della musica rock. Qui c'è più una libertà per quanto riguarda lo stile, anche nell'uso di strumenti non del tutto inerenti alla chitarra rock. C'è la marimba, anche strumenti da dadi come il vox farfisa o interventi di pianoforte. Quindi fino a questo punto la chitarra è stato un mezzo, come dicevamo prima, abbiamo scambiato due chiacchiere prima dell'intervista, per certo. Raccontare delle storie, delle idee che uno ha in mente e che vengono dalla natura, dalla letteratura, dal cinema e non ultimo dalla vita quotidiana. Quindi osservare quello che c'è intorno resta, a mio avviso, una forte influenza nella composizione. Lo definiresti un disco, in questi giorni stavo un attimino pensando, ascoltando Maestrale, che questo disco ha uno stile, adesso parola grande, ma comunque sulla scia di Bruce Springsteen? Sicuramente, perché è stato uno dei primi ascolti, quelle cose embrionali. Diciamo che mio fratello più grande, Marco, anche gli zii di poco più giovani, insomma zii giovanissimi, usavano nei mangianastri, nelle autoradio all'epoca, le canzoni dei Dire Straits piuttosto che di Bruce Springsteen. Quindi sicuramente c'è un qualcosa che ritorna, qualcosa di epidermico, diciamo. Ho capito. Allora, parlavamo prima del fatto che tu hai deciso di fare musicista a tempo pieno nel 2007, dopo esserti diplomato all'Università della Musica. So che la mola scatenante è stato un infortunio sul lavoro, quasi un segno del destino, e qui ci ricordiamo Tony Iommi, no? Anche se il destino sono stati diversi. Iommi è stato molto più sfortunato. Sicuramente con me è stato più benevolo. Era un periodo che nella zona in cui vivo, la provincia di Rieti, c'era poco lavoro, e diplomato da poco, pur di avere una certa indipendenza economica, lavoravo nei cantieri piuttosto che nelle fabbriche, proprio perché un certo percorso di studio richiede anche una fatica economica. E quindi un giorno, in assenza di un operaio, io lavoravo su due fronti e un trapano mi ha rotto il quarto metacarpo della mano destra. Aia. E lì c'è stato anche appoggiato dalla famiglia, perché poi diciamocelo, insomma, nessuno ce la fa da solo nelle cose, c'è sempre un ombrello dietro. Insomma, positivo. E ho detto, siccome era già anni che studiavo seriamente dopo il lavoro, e ho detto proviamo ad imbroccare questa strada, e finora sembra che le cose siano andate sempre meglio, e insomma so che un giorno qualunque potrei tornare indietro e ripercorrere alcune strade già fatte. Nel frattempo cerco di impegnarmi e di consolidare le cose raggiunte finora, i traguardi, le competenze acquisite, insomma. Perché sappiamo, insomma, che fare il musicista professionista è anche una disciplina molto difficile, e in Italia soprattutto, dove viene spesso non solo osteggiata ma avvilita la solita frase: no, sei musicista, che lavoro fai? Esatto. Chissà quante volte. Oppure ti dicono, oppure tu dici che fai nella vita, suono, e poi ti dicono e poi solo quello. Sembra quasi, no, che in Italia suonare sia quasi un divertimento e basta. Forse probabilmente è anche per questo che più che in altri paesi soffriamo al discorso musica e anche non solo emergenti, ma anche proprio questo svilimento della musica, al di là delle televisioni che ormai ci fanno vedere e rivedere i soliti talent show, dove insomma tritano e ritritano i soliti discorsi, ma questo poi non aiuta la nostra musica italiana, che poi viene anche apprezzata all'estero, voglio dire, perché insomma un gruppo come i Lacuna Coil, di cui parliamo anche spesso qui a Rock Web Radio, e non solo, in America sono molto, molto quotati, ma non solo in America, fanno concerti più all'estero che non in Italia, perché poi i cachet all'estero sono molto più alti che in Italia, ci sono molte più persone che vanno a vedere i concerti, che comprano molti più dischi e che comunque hanno una passione importante. Proprio ieri sera, si parlava rock di sera, gli Holy Shire, un gruppo di Milano di Symphonic Metal, al loro concerto in Repubblica Ceca si è presentato un ragazzo dall'Australia che ha comprato il loro disco e è andato fino in Repubblica Ceca a dire: ragazzi, io era un'emozione vedervi qua perché sono un vostro fan e sono arrivato qui dall'Australia, cose che in Italia sembrano, voglio dire, fantascienza, è una cosa incredibile. Comunque questo ti fa capire la passione, cioè basta che valichi, non so, la Svizzera e hai già un altro mondo incredibile. Sembra che l'Italia sia una sorta di medioevo in cui siamo murati vivi in questa sorta di bolla di ignoranza che ci massacra, ci svilisce tantissimo. Sì, sicuramente c'è un appiattimento culturale, un po' un andare indietro forse. E il lavoro del musicista professionista è difficile perché riguarda tante cose, è un lavoro nel lavoro. Io stesso riesco ad usare la musica come una professione perché insegno, perché ci sono altre attività che devi seguire e che spesso richiedono anche investimenti continui nei miglioramenti, nei masterclass da seguire. Non è una cosa che dico: ho preso la laurea e adesso sto a posto. La musica è un impegno quotidiano. È una disciplina che richiede molta costanza, molta coerenza tutti i giorni, quindi ti dà tanto, però devi dargli indietro, altrimenti poi è un po' come un professore, non so, di chimica che fa anche il ricercatore, ma che comunque deve sempre andare avanti e fare delle ricerche nuove, altrimenti, voglio dire, fa solo l'insegnante e basta. Esatto, specialmente se, come dicevamo prima, l'intento dell'insegnante è quello di comunicare la musica ai propri allievi a 360 gradi, quindi la conoscenza storica dei gruppi, i vari stili, è un lavoro di ricerca che richiede tempo, fatica, denaro e che è solo un lato comunque di quel lavoro lì. Poi c'è il fatto di fare le tournée, organizzarle, prenotare gli alberghi, i chilometri, insomma è un mondo proprio, è un mestiere che si impara un po' anche facendolo. Perfetto, allora andiamo avanti con le canzoni, ci ascoltiamo la tua canzone People, poi ci risentiamo per parlare ancora del tuo disco Maestrale. Sing, rather sing, let the people to feel free again. Sing, mother sing, let the people to feel free again. Running fast, losing ground, selling little, spend so much. Running fast, losing ground, selling little, spend so much. And then the people to feel free again. Bring together another day, speaking on the edge of time. Bring together another day, speaking on the edge of time. Oh, time, just life, Rock Web Radio. Rock Web Radio. Rock Web Radio. You are listening to www.rockwebradio.it, the best of Italian and international rock. Search for rockwebradio.it on TuneIn. You can listen to rockwebradio.it from your favorite player. Search for Rockweb Radio on Facebook. Send your email to rockwebradio.it@gmail.com. Your music is on air. Not a lifestyle, just life. Rock Web Radio. Rock Web Radio. Stai ascoltando www.rockwebradio.it, il meglio del rock italiano ed internazionale. Cerca rockwebradio.it su TuneIn. Puoi ascoltare rockwebradio.it dal tuo player preferito. Cerca rockwebradio su Facebook. Scrivici su rockwebradio.it@gmail.com. La tua musica in onda. Not a lifestyle, just life. Rockwebradio. E allora, ben ritornati a Gianluca's Rock Selection, sempre in compagnia di Andrea Salini. Abbiamo ascoltato due canzoni, Indios e People. Puoi spiegarci un po' queste due canzoni? Cominceremo anche perché abbiamo in chat già dei commenti, una piccola domanda, insomma, per te. Allora, Indios, diciamo che è il nomignolo che il governo cileno ha pioppato ai nativi in maniera dispregiativa. La canzone in realtà è nata da una notizia di Rai News, era il 2010, io così distrattamente guardavo la TV e il titolo diceva 33 minatori rimasti a 700 metri sottoterra, sono rimasti lì più di due mesi. Questo fu un episodio, insomma, pesante, che riportò un po' sotto la luce dei riflettori non solo le condizioni precarie di questi lavoratori, sfruttati, malpagati. Infatti il Cile è ricchissimo sia d'oro, d'argento e di rame, una delle più grandi miniere a cielo aperto di rame nel deserto Atacama. E quindi, oltre a questo, rivennero un po' a galla i problemi degli indiani Mapuche, che sono i nativi cileni e che grazie ad alcune leggi dei tempi di Pinochet possono essere incarcerati solo su testimonianze anonime, quindi sono delle persone che possono, non hanno modo di rivendicare i loro diritti. Quindi questo binomio dei minatori sottoterra e degli indiani Mapuche, gente della terra, ha fatto scattare quest'idea, e io ho riusato questa parola Indios perché così, in maniera benevola, ho pensato che comunque una canzone è un qualcosa di positivo, qualcosa che prende posizione, che difende anche degli ideali, dei principi, e per ridare un po' lustro al termine e per schierarci un po' dalla parte di chi subisce delle ingiustizie. Quindi la canzone parla a slogan, come può essere quello, una strofa di un brano o un ritornello, cerchi di raccontare delle sensazioni. Ho capito. E People? People invece è un po' diverso come concetto, e è detta un po' alla romana. Io vengo dalla provincia di Rieti, quindi è un po' come di canta. Però sei di originario di Roma, a Trastevere, se non sbaglio. Sì, sono nato lì nel 77. E dove c'è la trattoria della Soralella. Esatto, ci sono un bel po' di cose lì. E a Roma dicono canta che ti passano, quindi ecco. People, ispirato un po' dai lavori dei Beatles, come idee, come suoni, con le marimbe. Pare che ti stanno ascoltando dall'Inghilterra, quindi ci fa piacere questo. Ascoltando mio amico Roy Wetton. Quindi sono contento, lo salutiamo. E quindi niente, il brano cerca di raccontare un po' questo concetto, se vogliamo semplice, ma che è sempre valido, insomma, racconta della crisi socio-economica che attraversiamo, del fatto che uno fa tanto per risparmiare e poi un baleno si vede i propri risparmi svanire. Svanire completamente. E che comunque alla fine mal comune mezzo gaudio, cioè se uno poi riesce a trovare il coraggio per tirare fuori quello che nasconde, vediamo che alla fine i mali sono un po' comuni e questa cosa è un po' alleviata dal fatto dello scambio reciproco delle idee, dei sentimenti che ci attraversano. Perfetto, ti aggiorno per quel che riguarda la chatroom. Marco e Daniele hanno scritto: bello questo pezzo di Hammond, per cui... ci fa piacere. Quello lì è Fabio Verdini che ha arrangiato l'album, è un maestro del conservatorio Rossini, musicista eccelso, e che sull'Hammond ha trovato poi la sua vera natura. La sua natura, la sua vena creativa, e tutto quello che si sente poi marcato nell'album è stato voluto dal sottoscritto, perché in quel periodo era una cosa che incarnava secondo me un po' lo spirito lisergico del rock and roll. Quindi sì, sicuramente, perché poi una canzone nasce da alcuni accordi, da una melodia valida, e poi i musicisti gli creano un vestito addosso che a volte gli calza, a volte meno, a volte gli fa difetto. Qui sembra che, insomma, almeno, ecco, arrivano delle testimonianze favorevoli. Perfetto. Fibi prima ti chiedeva da dove è Andrea, dobbiamo specificarlo, magari adesso se vuoi rispondere tu. Assolutamente. Io vengo da Petrella Salto, quindi i miei genitori sono originari di lì, anche se io sono nato a Trastevere perché per via del lavoro che faceva all'epoca mio padre. E quindi io vivo da 20 anni ormai in maniera stabile in un paese dell'Appennino laziale, a un'oretta da Roma. Questo paese conta 300 anime e sta quasi a 900 metri sul livello del mare, quindi... Sei quasi al confine, stavo guardando su Wikipedia, sei quasi al confine con l'Abruzzo. Esatto, al confine proprio, sì. Anzi, nel 900 ancora risultava territorio abruzzese. Quindi hai anche vissuto l'epoca in cui l'Aquila, quel periodo là, insomma... Assolutamente. In quel periodo la ragazza che adesso è diventata mia moglie studiava lì, quindi abbiamo vissuto tutta questa cosa tragica. Per noi magari era fare un esame in un container, però per quelle persone lì, insomma, so, discorsi pesanti vanno affrontati forse in sedi che non sono quelle, insomma, di un'intervista rock. Comunque sì, sicuramente una cosa molto importante. Ecco, vuoi fare un pezzo, visto che abbiamo anche Andrea qui in versione acustica, vuoi fare un pezzo in acustico, magari in inglese? Mi piacerebbe di riproporre proprio Indios, magari liberata da tutti gli orpelli musicali, perché di questa canzone abbiamo mantenuto tutto lo scheletro armonico, quindi grosso modo più o meno era quello che io avevo in testa quando la canzone è stata scritta, insomma. Quindi possiamo provare. E allora Andrea Salini con Indios. Indios. Mille lanterne e mille croci, trema nel ventre la terra del Cile, buio in miniera, buio in galera, corrono al sole i figli del Cile. Sangue lungo il confine, contro gli occhi c'è il sole. Sangue lungo il confine, dentro gli occhi c'è il sale. Mille catene e mille croci, stanno in galera i padri del Cile. Mille sorrisi e mille voci, suda la fronte dei figli del Cile. Sangue lungo il confine, contro gli occhi c'è il sole. Sangue lungo il confine, dentro gli occhi c'è il sale. Rossa la sera, bianca la cera, dormono sole le figlie del Cile. Bassa la paga, lunga la pena, forte risorge la terra del Cile. Sangue lungo il confine, contro gli occhi c'è il sole. Sangue lungo il confine. Sangue lungo il confine, contro gli occhi c'è il sole. Sangue lungo il confine. Dentro gli occhi c'è il sale. Dentro gli occhi c'è il sale. E allora, Andrea Salini con Indios, versione acustica. Abbiamo già dei commenti. Scritch ha scritto molto bravo. Mentre il nostro capo supremo, Davide Biagini, ha scritto: mi ricordo un mio amico romano, Stefano Pavan. Conosci? No. No. Vabbè, comunque gli ricordi questo suo amico romano musicista? C'è qualcosa. Quindi insomma, ecco, e complimenti appunto da questo scritto, dice molto bravo. Bene, quindi insomma, qualcuno. Ottimi complimenti anche qui dalla chat room di Rock Web Radio. Vi ricordo sempre, se volete fare domande a Andrea, noi stiamo andando avanti alla presentazione del suo disco maestrale, ascolteremo un po' tutte le canzoni in versione acustica, in versione rock, elettrica, tramite il disco. E andiamo avanti con un'altra domanda, live performance. Come sono state finora alla luce dei tuoi due dischi, in particolar modo l'ultimo che hai realizzato, ovvero Maestrale? Dunque, Maestrale ci ha portato un po' più in alto come gratificazioni rispetto a Dottor Hyde e Mr. Hyde, perché ci ha visto coinvolti per la prima volta anche all'estero. Hai fatto concerti a Londra, mi dicevi. Ho fatto, sì, prima in Slovacchia abbiamo fatto due concerti, uno in diretta a Radio Bunker, suonando in diretta brani di Dottor Hyde, Mr. Hyde e di Maestrale, sia all'Art Club, che è un locale che piano piano prenderà a piede, perché è uno dei primi che ha organizzato concerti rock in quella zona dopo la caduta del muro di Berlino, quindi dagli anni 90, quindi un locale molto all'avanguardia. La sera che suonavamo noi c'era una musicista che era stata nominata anche per un Grammy in America, nativa di quella zona. E c'è stato un buon riscontro di pubblico. Ovviamente la trasferta è stata un po' sofferta, perché era la prima volta che mettevamo le chitarre sull'aereo, la prima volta che fai due concerti in un giorno con l'intervista in inglese in diretta, però insomma, da quanto è venuto fuori poi dai commenti, siamo riusciti a essere all'altezza di questa situazione. Da lì, grazie a quello che dicevamo anche prima, la forza del web, siamo riusciti a essere ingaggiati per due date, prima in giugno e poi in novembre a Londra. La prima a Troy Bar, a East London, dove suonavamo io e Stefano Tedeschini, che ha fatto tutta questa strada con me, che ringrazio, il fratello Daniele, bassista, che è rimasto a casa perché c'ha i figlioletti e l'abbiamo tenuto a riposo per la prossima trasferta in cui sarà coinvolto direttamente. E poi la data forse la più importante è quella al Fielder Elbow a Camden Town, un locale storico in cui si erano esibiti band tipo i Sex Pistols all'epoca, che ci ha visto misurarci, insomma, ci ha visto sul palco insieme ad altre band con le quali poi siamo rimasti in contatto, e quello è stato veramente emozionante perché c'era molta attenzione anche da parte dei ragazzi che si esibivano prima e dopo di noi. Questo in Italia francamente non c'è tanto, nel senso che non mi stupisce. Se c'è un festival o se c'è un raduno musicale, quando vai a vedere la scaletta e dici sono le 9, nel frattempo fai gli affari tuoi, invece lì c'è molta attenzione. E questo ci ha gratificato, perché noi eravamo, diciamo, ospiti, lì c'erano tre band inglesi e c'è stato un supporto anche logistico, un ragazzo ci ha messo a disposizione tutti e due i bassi che c'aveva lì, perché insomma una trasferta in una città come Londra c'ha anche dei costi, al di là dell'ingaggio che puoi prendere, i biglietti aerei, già mettere la chitarra sull'aereo costa 100 euro, così per darci un'idea. e la sterlina rispetto all'euro, tutte le, però insomma lo dicevamo prima, un lavoro in cui devi anche dare, non c'è, c'è sempre da prendere. E poi il musicista non deve fermarsi solamente a un posto, ma deve muoversi e deve andare, certo, pensa che nel 78 Demetrio Stratos dicevano le band americane viaggiano moltissimo, invece noi italiani non viaggiamo. È vero. E già nel 78 parlava di problemi dei musicisti, del fatto che i professionisti devono fare delle altre cose per mantenersi con la propria band. Loro per esempio in inverno facevano fatica a trovare ingaggi e avere soldi a disposizione, per cui non so, Fariselli faceva un esperimento sull'improvvisazione del pianoforte, Stratos faceva un esperimento per quel che riguarda i limiti delle estensioni vocali. Sì, poi è arrivato maestro della voce, insomma, i suoi dischi in cui sperimentava nell'ambito delle diplofonie, delle triplofonie, sì. Grazie a lui, insomma, è stato uno dei primi addirittura a sperimentare. Sì, so che addirittura c'era un'equipe dei medici perché riusciva forse a emettere due note contemporaneamente per un fatto proprio morfologico suo di nascita. Beh, il fatto di suonare poco, questo è stato un argomento che abbiamo trattato anche in altre occasioni, in altre radio, e determina anche un calo nella qualità dei musicisti, perché la determinazione che c'è nel live non è la stessa di chi suona a casa o di chi sta in studio di registrazione e fa anche quello di mestiere, perché col computer la parte la provi tutte le volte che vuoi, quando sei dal vivo devi suonare bene in quell'attimo, quindi la predisposizione è diversa. Infatti la fortuna è che la band con cui suono adesso, questi ragazzi, ripeto, Stefano Teschini che oggi mi ha accompagnato, è che frequentiamo molto la sala prove e cerchiamo ogni occasione, alcune volte ce le inventiamo anche pur di suonare davanti a un pubblico che possa essere 20 persone, 150, quello che suonare dal vivo è una dimensione diversa che ci sprona a migliorare continuamente. Intanto sono arrivati altri commenti, intanto Marco e Daniele che scrivono: bravo Andrea, sei un grande. Grazie, troppo buoni. Fibi si è persa un frammento, ha scritto: scusate, ho perso, di cos'è laureato Andrea? Io sono diplomato all'Università della Musica, nel senso che dopo aver conseguito il diploma delle scuole superiori ho preso questa, diciamo, chiamiamola laurea, di una scuola che però non è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione come può essere quella del Conservatorio, perché tratta un argomento che va dai primi del Novecento ad oggi. Adesso c'è un qualcosa in movimento, infatti io sarò costretto, come dicevo prima, a rintraprendere di nuovo, a diventare una matricola, rimettere il cappello dell'allievo e prendere anche il diploma magari in chitarra jazz, perché quello cioè quel pezzo di carta ti abilita ad insegnare nelle scuole e perfetto, prendere magari uno stipendio che ti aiuta a pagare le bollette. A tal proposito Fibi scrive: da noi si dice, ma penso vale per tutto il mondo, che un musicista non ha fama alla casa. Sì, nessuno è profeta in patria. Adesso non cito il latino perché non l'ho studiato, però sì, nemo profeta in patria, mi sa, sì, si dice così. Ma guarda, piano piano noi stiamo sfatando queste cose, perché nel paese in cui io vivo, fino a qualche tempo fa, c'erano le cover band di Ligabue e Vasco Rossi. Noi nel nostro piccolo abbiamo portato qualcosa di più sotterraneo, qualcosa di più underground, sì, nostro, e riusciamo nel nostro piccolo a tirarci le nostre 30 serate l'anno. Ci vuole pazienza, come si dice in questi casi, ci vuole un po' di gavetta per riuscire poi a costruirsi una piccola fama che poi pian piano cresce. Sì, perché adesso quello che dicevamo prima dei programmi televisivi, delle vetrine, è che i ragazzi arrivano al top, stanno in TV comunque vada per un periodo, invece i musicisti degli anni 60 e degli anni 70 suonavano in continuazione ovunque e comunque, non cercavano un contratto da firmare, ma pensavano alle note. Quindi musicisti come me, partendo da me, dobbiamo pensare di più alle note e di meno, tra virgolette, al successo, perché il successo c'è una forma variabile. E poi non è detto che il successo duri una vita. Esatto, ma è proprio la fama e il successo sono cose diverse. Io che nel mio piccolo ho attraversato l'Italia per venire qui questa sera, se porto a termine questa cosa e riporto la buccia a casa, ci ho avuto successo per quanto mi riguarda. Questo è un piccolo frammento di quello che sarà poi la storia che riguarda Andrea Salini come musicista. Ottimo. Che ne dici? Ascoltiamo un altro pezzo tratto dal tuo disco, si chiama Rock School, che anche se non sbaglio è un piccolo videoclip, si può vedere su YouTube. Assolutamente, sì, sì. E allora un pezzo rock si chiama, di Andrea Salini, tratto dal disco Maestrale, si chiama Rock School. I'm reading. Allora, Andrea Salini con Rock School, finalone con Lemon, bello scosso, no? Ci dici qualcosa di questo pezzo in inglese? Sì, questo è un brano che racconta appunto il dualismo del mio lavoro, quello di insegnante di chitarra che il giorno corre a lezione e spesso è, diciamo così, emulato dagli allievi, quindi c'è anche questa responsabilità, e poi il pomeriggio si mette d'accordo con gli amici per andare col furgoncino a fare le serate. Quindi dice che la canzone racconta dei pasti consumati velocemente in classe perché devi ottimizzare il tempo. Una vita a ritmo di rock and roll. Esatto. Le influenze, potremmo citare i Social Distortion, i Green Day, i Ramon, alcune band che si conoscono, insomma, di cui prima parlavamo, e che restano un po' lì come un neo che difficilmente uno poi riesce a coprire con un trucco, insomma. Però sì, il contenuto, lo dice il termine, Rock School. Poi possiamo fare anche un rimando alla pellicola di Jack Black, perché alla fine c'è una circolarità nelle forme d'arte che si incontrano e si rincontrano. Poi magari parliamo anche proprio del termine maestrale, di quello del perché, se ci sarà tempo, se sei curioso. Certo, certo, tu, gli ascoltatori. Sarà proprio la prossima domanda, no? Appunto, parlavamo prima di musica, no? Come forma d'arte. Nel nostro recente viaggio ad Amsterdam, abbiamo visto proprio, no? Che visto che parlavamo dell'Italia, del fatto che qui da noi viene tutto un po' svilito, e invece là una cosa che per esempio mi ha colpito è stato proprio l'amore per l'arte, l'arte pittorica, visto che è comunque una delle grandi capitali, ha avuto dei grandi maestri come Rembrandt, come Van Gogh, a cui è dedicato un mega museo galattico, cioè il vedere l'amore per l'arte diventare anche un lavoro all'estero e non concepire come mai in Italia non riusciamo a capire che la musica è anche arte e non è solamente il talent o il bel canto, come si dice in questi casi. La musica è arte, è un fenomeno culturale, comunque, sempre. Ma è bello che all'estero è anche un discorso, cioè voglio dire, è anche un fatturato economico. Ci sono molti musicisti all'estero che lo fanno di lavoro, cioè fanno il metallaro, non so, hanno la band e di lavoro proprio vanno in tour. Beh, noi, io che ci provo, insomma, a fare della musica un mestiere, siamo un po' dei funamboli giocolieri che vivono sul filo del rasoio, però, come diciamo dalle nostre parti, non ce l'ha ordinato neanche il medico, quindi... È una scelta di vita. Oneri e onori, ovviamente, un ritorno da parte dei governi all'attenzione sulle cose, come magari prima la sanità e poi la cultura, ci aiuterebbe. Esistono dei paesi che stanziano dei mensili, come succede qui per i socialmente utili, a chi detiene un titolo come quello del conservatorio. Alcuni dei miei insegnanti dell'UM, dell'Università della Musica, sono andati in Spagna piuttosto che in Olanda e in Francia, perché lì quel titolo gli garantiva già un mensile, come per dire ti teniamo qui perché sei una risorsa, hai acquisito delle competenze che vanno conservate e ovviamente poi ampliate. Pensa che pure in Svezia, per esempio, so che in Finlandia, pensa che un mio amico, un carissimo amico che è musicista e cantautore fiorentino, vive in Olanda, ad Harlem, sua figlia ha intrapreso la un percorso che la farà diventare ballerina, no? Uh-huh. Gli insegnanti l'hanno vista e le hanno detto alla famiglia: scusate, abbiamo visto che vostra figlia ha una propensione per una grande propensione per ballare dalla danza classica. Se la sentirebbe di venire al Royal College di Adelaia per diventare ballerina professionista? E l'hanno detto vabbè, e gli hanno chiesto alla figlia, ha detto vabbè. Loro hanno detto: guarda, magari non diventerà ballerina, voglio dire, di attuale, però potrà un giorno insegnare ballo classico. Certo. Comunque, aprire sì una propria scuola. Come no? È sconvolgente. Sentire queste cose così normali in Italia, sentirle da un musicista italiano che vive all'estero e cerca anche di guadagnarsi la pagnotta all'estero, cioè, sembra quasi che siamo nel Medioevo. Sì, poi attenzione, gli italiani per alcune cose sono anche particolari, perché bisogna anche, tra virgolette, accontentarsi un po'. Ovviamente qui la situazione è realmente difficile, sia per quanto riguarda i compensi dei diritti d'autore, sia per quanto riguarda la retribuzione delle band durante i live, per quanto riguarda le azioni poi delle varie agenzie di management. Insomma, tante cose andrebbero riviste e potrebbero arrivare degli aiuti da chi ha dei poteri decisionali. Nel frattempo, chi ha deciso deve, tra virgolette, resistere, perché poi un po' il rock and roll è quella presa di posizione, è già una scelta, no? Come dicono gli AC/DC, it's a long way to the top if you want to rock and roll. Esatto, proprio. Ok, allora adesso vuoi farci un pezzo acustico? Come sì. Vuoi che andiamo avanti? Guarda, io mi piacerebbe di rifare un brano che si chiama 11 novembre, mm-hmm. e che paradossalmente è legato al titolo maestrale e anche al brano maestrale. Che abbiamo anche saltato, dovevamo metterlo, ma vabbè, facciamo dopo. Dai. Allora, diciamo che 11 novembre è la cosa che tutti conoscono, è l'estate di San Martino. Quindi si assaggia il vino novello con le castagne, arriva l'autunno, c'è una predisposizione, almeno nelle zone in cui vivo io, ci si prepara all'arrivo dell'inverno. Quindi c'è un contatto con la natura, una realtà con delle cose ancestrali, no, legate. Anche se quest'anno l'inverno è durato un pochino tanto. E quest'anno non se n'è andato mai, diciamo, esatto. Dalle parti nostre. Però insomma, anche qui da noi, quel purtroppo. Fatto della circolarità delle cose che si ritrovano. San Martino ha anche un modo di dire, cioè quando finivano i contratti agrari facevano fagotto, cambiavano da un potere all'altro e si diceva facciamo San Martino. Questa è una cosa che io ho rivisto anche nel libro dei fratelli. Si dice Cervi. Anche da noi quando si cambia casa. Ma vedi, apposta, uno quando va in giro impara. Quindi l'ho ritrovata nel libro dei fratelli Cervi e questa cosa io poi l'ho ritrovata dopo, perché maestrale la trovavo un termine molto evocativo, un vocabolo molto comunicativo, sia perché vabbè, sta sulla rosa dei venti e indica la direzione nord-ovest, ma era un periodo che approfondivo l'ascolto della musica progressive italiana, quindi le Orme, la PFM e il Banco, e c'è un brano che si chiama Non mi rompete, in cui da io sono nato libero. Esatto, purtroppo qui dobbiamo ricordare Francesco Di Giacomo scomparso prematuramente, e cita i cavalli del maestrale che trasportano questo fantomatico carro. Quelle parole con quella musica mi hanno generato un'emozione forte, quindi ascoltavo quella musica così e sono andato a rileggere da rime nuove alcune poesie del Carducci, tra cui San Martino, quindi maestrale, che poi sono andato a vedere anche il termine, in pratica indicava la via maestra da Venezia a Zacinto, questa sorta di diagonale. Era tutto un pensare a quello che succedeva, all'utilità del vento, con un rimando anche al Feng Shui. Quest'anno con la mia compagna, con mia moglie, abbiamo fatto un viaggio in Cina e abbiamo approfondito alcune cose che avevamo studiato sulla forza della natura, sul dualismo, no? Il Feng Shui sarebbe il vento e l'acqua, quel vento che potrebbe essere utile ad alcuni mestieri. Pensiamo ai mulini a vento, ai mestieri dei naviganti, no? So qualcosa di mulini a vento dopo aver visitato l'Olanda. Esatto, oppure le brezze leggere che muovevano le navi erano un aiuto per alcuni mestieri, e in questo caso sono stati un aiuto anche per i musicisti che hanno trovato, nel mio caso, ispirazione da un vento, da una direzione

11 novembre Andrea Salini in versione acustica. Qui abbiamo Marco e Daniele che scrivono vai Andrea e vai. Grazie a questi ragazzi gentilissimi, io li abbraccio e gli pagherò una birra se li incontrerò un giorno. Ok, allora 11 novembre abbiamo parlato, un'altra delle, delle domande, allora abbiamo parlato appunto del, del titolo, no, del disco maestrale. Ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano il tuo sound? Sicuramente su tutti Jimi Hendrix, questo ne parlavamo prima, quella chiacchierata è stata molto piacevole col caffè, un momento di pausa e di riflessione, quindi Jimi Hendrix è come la stella cometa per quanto mi riguarda. Sicuramente Blackmore, Gilmour, Uli John Root e gruppi come Pearl Jam, i Kansas, Scorpion, quindi tutto il rock classico sicuramente. E da un po' di tempo a questa parte sto strizzando l'occhio, diciamo così, a, al prog, prima italiano, perché insomma forse possiamo parlare di eccellenza della musica italiana moderna proprio in quell'ambito. Perché... Anzi, sono stati proprio certi gruppi inglesi sono arrivati in Italia e hanno avuto grandissimo successo prima in Italia, poi in Inghilterra, poi Genesis, sì, esatto. Tipo i Van der Graaf Generator, o perché no, anche i, adesso mi vengono in mente i Curved Air, o tanti altri gruppi progressivi che prima sono stati incredibilmente accolti in Italia in un momento in cui la musica, voglio dire, una musica così complessa era... presa veramente in considerazione. Guarda, io l'ho approfondito un po' quest'estate durante il viaggio in Cina, nei momenti liberi, proprio un libro sulla progressive. Ah, Marco e Daniele scrivono ce la paghi la birra, sicuro. Ok, va bene. E dicevamo, ho appreso della scena di Canterbury, dei Colosseum, dei Caravan, di quelle band lì, però so di per certo che il band che abbiamo citato prima, come il Banco, la PFM e le Orme, sono riusciti a fare incisioni, tournée all'estero, riscuotendo anche, insomma, negli anni 70 fare una tournée in Inghilterra e in America significava confrontarsi con gente che veramente ci aveva gli attributi quadrati. Oh, e quindi questo è in maniera diciamo così italiana un orgoglio, una soddisfazione per noi sapere che io ho comprato dall'America alcuni CD del Banco pagandoli meno di quello che, o addirittura titoli che in Italia non trovi più, o comunque ho letto recensioni di band tipo i Dream Theater che nominano le Orme o che nella loro discoteca ci sono i CD della PFM, quindi nel libro che io ho letto, e quindi ancora sono agli albori della conoscenza di questo repertorio che mi affascina, veniva indicato come la musica della testa, del cervello, piuttosto che la musica... Musica della mente. Esatto. E quindi è un connubio di jazz, classica e rock, un giorno... E musica classica. Esatto. Scusa, mi dimenticavo quell'elemento. No, perché comunque sai, sì, sì. Il prog ha preso piede in Italia perché la musica classica... A differenza magari del rock o di altri generi musicali, in Italia ha comunque un suo piccolo background che ci abbraccia un po' tutti. Sì. Quindi è forse anche per quello, perché un certo tipo di progressive in Italia ha germogliato e ha dato dei frutti. Assolutamente. Ti ripeto, io nell'ultima intervista che ho fatto in primavera a Roma ho ricordato Di Giacomo, perché poi lui riusciva a dargli un non so che di melodico, perché era dotato di una voce veramente... Uno dei pochi cantanti, esatto, che riuscisse anche... Poi la progressive non vanta queste voci così eccellenti, diciamo. Di Giacomo era uno di sì, quelli che comunque... Di Giacomo, e quindi le influenze sono arrivate su questo album dalla progressive, soprattutto per quanto riguarda i testi, non ultime anche le Orme, che poi sono di qua, insomma. Provincia di Venezia, la sono di Mestre. Veneta, no? Quindi tuoi conterranei. Un po' più avanti, sì, ma insomma comunque sono... Siete vicini. Veneti, e, secondo me la forza dei testi delle Orme sta nel fatto che vengono usati dei termini anche semplici, non così ricercati, per esempio come faceva Battiato, ma con una forza comunicativa, evocativa notevole. E quindi io piano piano, cioè c'è quasi come il timore di dire ho finito la discografia delle Orme, quindi li alterno, compro uno delle Orme, poi compro uno del Banco. Adesso nella mia collezione di dischi ho una decina di titoli delle orme, ne ho visto uno che, perché poi ascolto quelli un po' più vecchi, quello in cui c'era Dolo Marton, insomma è una scoperta, la progressive è un po' un rock che uno ci può giocare, perché tutti quegli arrangiamenti, quell'uso delle scale, rimandi alla musica classica, le orme su Scarlatti, altri albori di Bach, se sei predisposto a quella ricerca, da una cosa ne esce sempre una, due o dieci. Adesso ti dico di più, no? Ho parlato con un mio amico di Torino che è stato in tournée, ha fatto 4 date in Giappone, in Giappone è stato intervistato da una radio giapponese universitaria, questi ragazzi conoscevano ragazzi dai 15 ai 30 anni, conoscevano balletto di bronzo, conoscevano Rovescio della medaglia magari. Sì, Rovescio della medaglia, queste cose qua, e li conoscevano proprio così. Addirittura un gruppo come gli Opus Avantra, che in Italia voglio dire sono stati un po' dimenticati. Gli Osanna. Gli Osanna già hanno un nome un po' più altolocato, girano anche l'Italia adesso che è il progressivo. I giapponesi sono stati i primi a ristampare i dischi di progressive italiano e là li conoscono a menadito. Quando un gruppo italiano anche emergente fa un disco là, lo vogliono subito. Certo, c'è una addirittura i Jumbo, questo me l'ha raccontato Maurizio, nostro amico di Blu Radio Veneto, che salutiamo. Esatto, salutiamo, che i Jumbo sono stati richiesti in Giappone per un tour, ma loro si sono sciolti, cioè non possono più riformarsi perché il batterista non suona più. Però c'è stata la richiesta da parte dei giapponesi di suonare. Gli Opus Avantra hanno suonato in un teatro importante di Tokyo con una sezione archi, una band allargata, ma voglio dire i giapponesi hanno riempito conoscendo solo i dischi. Mi fa venire in mente che forse anche la banda Bassotti ha fatto una tournée in Giappone, non ti vorrei di cavolate, addirittura di supporto ai Red Hot Chili Peppers, e in un concerto a Roma il chitarrista ha raccontato, sai che la banda Bassotti ha tutti un soprannome, c'è il Sigaro, Scopa, il chitarrista, e dici che hanno incontrato... Quindi da noi non è che li conosciamo tanto, che Banda Bassotti mi ricorda Topolino. Sì, però ti posso garantire che è una band molto conosciuta in Italia. Perfetto. Che fa dello ska, una musica molto schierata. Ho capito. E che, per quanto riguarda il Giappone, credo abbiano incontrato da lontano Joe Strummer, poco prima che morisse, in uno di quelli che lui chiamava i Falò, no? Quelle adunate che poi organizzavo con dei musicisti... E quindi voglio dire, per essere arrivati anche band come la banda Bassotti in quelle zone lì, sottolinea quello che tu dici e che rimanda un po' al discorso di prima della Slovacchia o dell'Inghilterra, dove c'è una profonda attenzione verso le forme culturali e d'arte in generale, che poi sia una mostra di pittura o un concerto rock fa poca differenza, insomma, lì. Marco Daniele commentano ancora: bravo Andrea, complimenti per i tuoi pezzi, continua così, long live rock and roll. Saluti a questi ragazzi, che io non faccio fatica adesso a... Sto cercando di pensare se sono persone che io conosco, che frequento o ecco, meno. Magari scrivono in chat, ma che riusciamo a capire. Io direi, visto che hanno introdotto Long Live Rock and Roll, passiamo alla tua cover di The Temple of the King di Rainbow. Esatto. La sentiamo adesso, tratta dal disco Maestral, la tua unica cover del disco. Sì. Time, remember well when the strong Andrea Salini con The Temple of the King, cover dei Rainbow. Gran pezzo, la prima canzone che ho detto subito, fantastica questa. Che è comunque un gran pezzo rock, un gruppo anche importante, insomma, Ritchie Blackmore, parlavamo prima, no? Per me è una figura fondamentale la chitarra elettrica, Ritchie Blackmore. Poi nell'ambito dei Rainbow, dove aveva un raggio d'azione ancora più grande rispetto magari a Deep Purple, dove c'erano anche altre figure di spicco. Quindi diciamo che tolto Hendrix è il mio gruppo preferito sicuramente, e questa è stata, diciamo, io sto seguendo un filone con una sorta di innocente presunzione, nel senso che tutti e due gli album che ho prodotto finiscono con un brano strumentale e che è il titolo di una pellicola famosa, e in ogni brano c'è sempre una cover, perché come dicevo anche su un'intervista uscita su chitarre, la cover ti identifica, è come un documento, racconta un po' quello che è il tuo background musicale, che è la tua identità di musicista, e comunque è un qualcosa da regalare all'ascoltatore. Spesso mi è capitato, sai, tu sai meglio di me, compri un disco e magari non c'è quella, c'è un'aspettativa dal titolo, dalla copertina, dalla band, però tutto sommato pensavo fosse meglio. Però magari c'è un brano che tu, così, in maniera erronea, attribuivi a quell'autore invece di un altro. E allora sì, dici, quasi quasi vado a scartabellare e scopro. Quindi l'intento è quello, e spero nel mio prossimo album di fare una cover, che adesso ancora non so quale potrebbe essere, di chi è fatta come, e di chiudere l'album sempre con un titolo che rimandi a una pellicola famosa. C'è già in mente qualcosa, però magari non lo voglio dire perché poi magari non ci riesco, quindi rimango io stesso deluso. Però è bello, secondo me, parliamo di un brano, perché parlare di un brano, a volte succede, brano inedito di Gianluca Merlini, poi fai tre pezzi, cinque cover, non è tanto corretto, secondo me, insomma. O fai un lavoro di stile, dici, voglio riproporre un album sugli anni 50, fai tutti i pezzi che non sono i tuoi, però non dici ho fatto un album, dici ho fatto una fatica discografica riguardo uno stile, cioè, l'ho fatto a modo mio. Un brano inedito deve essere, insomma, per un buon 90% inedito. Questa è la visione, perfetto, che io ho di un album, insomma. Un commento di tale Screech, uno di che ci sta ascoltando, è un piacere ascoltarti, suonare e parlare. Arrivano sempre complimenti. Meno male. In chat, questo è il bello anche di Rock Web Radio, questo è il bello della Web Radio, anche della chat room, che a volte ci sono delle persone che, voglio dire, noi invitiamo e continuiamo adesso anche a invitare, che ci stanno ascoltando, venite in chat, perché la bellezza proprio della Web Radio è di interagire con chi in questo momento stiamo intervistando, ovvero Andrea, ma con anche tanti altri musicisti che hanno la possibilità anche di sentire in tempo reale i commenti attraverso, voglio dire, le canzoni di Andrea e anche il set acustico. È una grande opportunità, io ti auguro di ospitare nella tua radio gente molto più famosa di me, io so. Noi ci accontentiamo anche degli artisti emergenti, che sono, certo, perché siamo anche una web radio che sta cercando pian pianino di crescere, ma anche perché, insomma, vogliamo dare spazio non sempre alla solita musica che senti nelle televisioni, ma insomma qualcosa di un po' più, voglio dire, interessante, dimostrare anche che, insomma, che non sia I soliti nomi, ma anche per far capire alla gente che il rock non è morto, ma è vivo, e ci sono tantissime persone, come diceva Pino Scotto, migliaia di bands che spaccano il culo. Davvero. Assolutamente vero. Allora, vuoi fare un pezzo in acustico? Vuoi che puntiamo con le domande? Guarda, io se per te va bene, farei anche un brano magari del precedente album, perché magari va benissimo, sempre una vetrina. E c'è un brano a cui sono legato che si chiama Canzone per il lupo, che è tra le prime composizioni mie, e questa qui incarna un po' l'archetipo del bandito rispetto al mondo animale fantastico. Quindi con questo brano ho voluto, che ovviamente è una metafora, il lupo rappresenta un po' l'uomo, un po', volendo anche un po' l'uomo musicista, come dicevamo prima, un po' additato, ecco è arrivato questo che se la vuole cavare con la chitarrina invece di andare in fabbrica o di faticare dietro una scrivania. Quindi Canzone per il lupo, durante i concerti che abbiamo fatto, il primo tour pure ha contato circa una quarantina di date solo in Italia, però abbiamo girato un bel po', e ogni volta che c'erano i piccoli, sai, quando ci sono le feste di piazza, che i bambini con la musica saltano sotto al palco, gli dicevamo: i lupi non è vero che sono cattivi, no? E perché? Sempre perché alla fine questo, sia dalla chiesa prima additato come animale malefico, sia dai grandi proprietari terrieri che lo scacciavano perché nocivo per la selvaggina, è stato un animale sempre scacciato. E quindi questo brano è un po' una metafora, infatti c'è un po' un paragone col cane che sta al sicuro, mangia, c'è il padrone, però c'è il padrone, sta lì fermo, fa il suo lavoro, invece il lupo se la rischia perché si azzuffa con un altro lupo, gli può sparare un cacciatore, può scalare una tagliola, però è libero. Quindi è un brano che identifica il mio modo di vivere proprio, racconta un po' della scelta di vita anche nel posto in cui vivo. Ho capito. Quindi questa è Canzone per il lupo, mi dici tu? Vai pure, vai pure. Okay. Una mano disegnò lupo nero in una fiaba, accusato da chi può, maledetto da chi ruba. San Francesco gli parlò lungo il muro per un po', tra le case lui restò. Ecco il sole fuggì via, ecco l'uomo la bugia, ecco il vento porta via la paura, la magia, inseguire un'altra scia. La natura mi insegnò a cacciare per la vita, affamato da chissà che il coraggio fa paura. Sulla neve lascerò le mie orme, correrò, la mia tana troverò. Ecco l'alba scappa via, ecco l'uomo la follia, ecco il vento porta via la ragione e la poesia, inseguire un'altra scia. Ecco il vento porta via, ecco l'uomo la follia. Con le stelle seguirò il sentiero più sicuro, il mio verso porterà altri brividi lontano, un padrone mai avrò, sempre libero sarò, con la pioggia tornerò. Ecco l'alba scappa via, ecco l'uomo la follia, ecco il vento porta via la ragione e la poesia, inseguire un'altra scia. Ecco il vento porta via, ecco l'uomo la follia. Na na na na na na. Oh, na na na na. Allora, Andrea in versione acustica con porta pazienza, ripetimi il brano. Canzone per il lupo. Canzone per il lupo, tratta dal tuo primo album, Dr. Hyde and Mr. Reinhardt. Io ti ho portato una copia, se dopo c'hai la pazienza. Certo, molto, molto volentieri. Allora, siamo sempre qui che stiamo presentando, questo era stato un po' un'aggiunta, no? Con sì, il primo disco, il disco maestrale, e andiamo avanti perché adesso andiamo direttamente a parlare del complesso del disco, ovvero l'esperienza durante le registrazioni, quali sono state le idee musicali che hanno contribuito alla realizzazione di Maestrale e come ti sei trovato assieme alla tua band, con il tecnico del suono che vi ha seguito in processo creativo. Allora, questo album, come il precedente, è stato registrato con diciamo dei turnisti, dei membri della band di cui parlavamo prima, dei Gang. Quindi Francesco Capolaretti è stato direttore artistico di tutti e due gli dischi che io ho prodotto, e Verdini, che ha suonato Lemon del pianoforte, si è occupato della ripresa dei suoni, sempre sotto la visione di Capolaretti. Quindi è funzionato un po' come succedeva negli anni 70. Arrivavo io con la chitarrina, con le idee degli accordi, che spesso sono rimasti fedeli a quello, e le parole, il testo, la melodia, e insieme si conferiva un'impronta. Per quanto riguarda la cover, per esempio, io originariamente avrei voluto inserire Factory, quindi diciamo che prima hai colto nel segno, perché quel brano di Springsteen, di Darkness of the Edge of Town, è un brano che io ascoltavo quando ero piccolo, che me ne è rimasto impresso. Però c'era anche questa passione comune di Caporaletti e mia su Blackmoor, e una prima sfida, quella di riproporre il cantato, quindi mettersi alla prova anche come vocalist, perché abbiamo registrato The Temple of the King nella tonalità originale, e insomma confrontarsi con uno come Ronnie James Dio te la rischi un po'. Tanto. Ci abbiamo provato, come è andata, e quindi sicuramente dell'impronta che ho io, ad esempio se ascolti il solo di 11 novembre, lì c'è riassunto un po' i vent'anni che ho dedicato fortemente alla musica, da quando, dai primi rudimenti, sai, quando uno si avvicina alla chitarra così da autodidatta che fa le superiori, lasci, prendi, è in gioco, la chitarra è scordata, non ti viene, poi mano a mano, lì, perché la chitarra pop, diciamo così, la musica rock popolare, a differenza per esempio del progressive o di altri tipi di musica, dove tu un concetto lo puoi esporre giocandotele anche su diversi minuti, riprendendo un riff, girando il tema su altre ottave, lì in quattro battute, rispettando la forma canzone. Questa è una cosa che io ho sempre fatto, che una volta uno speaker di Radio Orvieto Web, appunto, cioè aveva un programma che si chiamava Prima gli Sprassolati, e mi disse: è ammirevole che un chitarrista riesce ancora a rispettare la forma canzone, cioè il solo, questo era quello che diceva anche Jeff Beck, il solo deve portare la canzone, il brano, in una determinata parte, è un abbellimento, altrimenti crea solo tensione nell'ascoltatore, o sei un fenomeno o rispetti le tue battute. Quindi nei 20 secondi di 11 novembre c'è raccontato quello che io penso sia l'espressività della melodia, del sound, e alla fine pochi trucchi, perché lì c'è solo una Stratocaster che passa dal fuzz al delay e va nell'amplificatore valvolare. Quindi l'idea del suono sta nella testa, nel voler cerchi di suonare, c'è in mente l'ombra della montagna, e quella grandezza tu la vuoi riportare. È un concetto un po' difficile. Ok, ma lo possiamo secondo me sintetizzare ascoltando l'11 novembre, però prima andiamo un attimo in jingle e poi ascoltiamo l'intera canzone. Ok. Not a lifestyle, just life. Rock Web Radio. Rock Web Radio. Rock Web Radio. You are listening to www.rockwebradio.it, the best of Italian and international rock. Search for rockwebradio.it on TuneIn. You can listen to rockwebradio.it from your favorite player. Search for Rockweb Radio on Facebook. Send your email to rockwebradio.it@gmail.com. Your music is on air.

Tanto ormai abbiamo capito, dobbiamo sforare qua, dobbiamo chiudere no, l'intervista. Nel frattempo si è rifatto vivo Davide Biagini e anche Marco Daniele, tutto ok qua, ci stiamo ascoltando e insomma ci fa piacere che ci state sempre seguendo, perché insomma l'intervista sta andando molto ma molto bene, insomma Andrea si sta veramente esprimendo bene, guarda che ci sono tanti musicisti che di fronte al microfono si terrorizzano, invece te sei tranquillo, pacifico, sei anche abituato mi sembra anche da... Ah, perché uno si sente a casa nei posti come questi. Perfetto, ah, fantastico, queste sono delle cose stupende. Guarda, un'altra domanda... Avevamo parlato delle registrazioni prima, se non sbaglio, no? Recensioni musicali, adesso andiamo sul diretto, sui giornalisti o comunque i recensori, cosa ne pensano del tuo disco, gli giudizi di chi ha scritto queste recensioni? Guarda, quello di chitarre è stato più che diciamo criticare l'album, è stata proprio un'intervista sul lavoro, un paio di pagine. Ci sono state alcune recensioni su dei portali e cercavo, dato che il primo album era stato recensito su Buscadero, c'è una rubrica che tu conoscerai che si chiama Italians Do It Better, sì, curata da un po' che non leggo Buscadero, curata da Andrea Trevaini, proprio per gli artisti autoprodotti come me. Buono. Quell'album era stato recensito come un ottimo esordio. Io non sono riuscito ancora a capire se ha ricevuto il secondo album. Diciamo che è difficile oggi essere proprio recensiti. C'è un lavoro fisico, nel senso che quando pubblichi un album, il bollino della SIAE deve recare la dicitura per la vendita. E così può andare nelle radio, nelle riviste, perché quando tu... io avrò spedito 200 CD. E se non c'è dietro un determinato canale che può riguardare una spinta, conoscenze, spesso vengono cestinati senza neanche essere aperti. Quindi per quel poco che è stato scritto sono stati descritti come buoni lavori, altri vedremo, perché alcune volte poi questi lavori vengono ripescati. Sicuramente io da musicista, da ricercatore, cerco di spingere l'album, perché alcuni sempre nelle web radio ti chiedono mandami gli MP3, e io, anche se è un costo, cerco di mandare l'album originale, perché l'album c'ha un booklet, c'ha una copertina. Queste copertine dei miei album sono state realizzate da Marco Cardone, che è un artista reatino che comincia a essere quotato anche all'estero, ha fatto grandi lavori su diversi fronti e che secondo me ha dato la giusta impronta a tutti e due gli album. Il primo c'era un lupo disegnato da lui, perché l'album era d'esordio e era importante la musica, l'involucro. Nel secondo, come dicevamo prima, ci sono io un po' così in ombra. Su una scala chiocciola, esatto, perché continua, perché questo il disco esclude chi va di fretta, insomma, cioè l'intento forse, dico perché ha fatto lui e io gli ho lasciato carta bianca. È stato bravo, voglio dire. È giusto che sia così. Quando chiedi a qualcuno un lavoro deve fare quello che lui si sente, altrimenti te lo fai da solo. Davide scrive, vogliamo gli MP3 per una questione di server, il CD poi va digitalizzato. Sì, comunque, sì, sicuramente. Insomma, il CD comunque fa sempre piacere. Io mi rendo conto, però, perché la produzione di un'opera culturale, un'opera d'arte, nel senso, non che sia bello, nel senso che comunque è un'azione che c'è a che fa con l'arte, è fatta anche di quello, no? Quando acquisti il CD c'è il booklet, ci sono le foto, c'è scritto chi l'ha suonato, chi l'ha registrato, e quello è farsi una cultura musicale vera e propria, non solo una scorsa su Wikipedia. Esatto. Quindi sicuramente c'è quel, insomma, parlavamo delle recensioni, quel poco che è stato recensito è buono, diciamo, io sono contento di quello che hanno detto. La difficoltà sta proprio nell'essere recensiti, perché anche le riviste stesse, tipo il Mucchio Selvaggio, fanno fatica perché dice, la rubrica è per gli autoprodotti, poi leggi 10 recensioni, c'hanno tutti l'etichetta, la casa discografica. Ma sai perché molte case discografiche spingono i propri lavori, addirittura comprano degli spazi? Sì, questo sì, però io parlo di rubriche, perché Buscadero, ad esempio, non c'ha pubblicità, no? È una rivista. Ho capito, però siamo sempre lì discorso. Nella rubrica inserisci il disco che viene spinto da una casa discografica che... Sì, no, io mi riferivo alle rubriche per gli autori autoprodotti, cioè lo spazio, perché poi è chiaro che i giornalisti sono specializzati in alcune cose, ci sono certi che hanno proprio quell'istinto di talent scout che vanno alla ricerca di gente come me, che magari c'ha un'idea, così anche malsana, però un'idea sua, e quindi in quegli spazi dovrebbero esserci gli artisti autoprodotti, insomma. Mi scrive Screech dalla chatroom: dove possiamo ascoltare e acquistare l'album? Allora, per avere l'album originale, ovviamente solo i negozi nella provincia intorno a me, però scrivendomi su Facebook o visitando il Facebook o il mio sito www.andreaserini.com si riceve l'album nel termine di 2 o 3 giorni. O ai tuoi concerti. O ai miei concerti. C'è una maggiorazione di spesa di 2 euro per l'affrancatura, altrimenti è in vendita su tutti i portali digitali, da iTunes, quelli più famosi. E quindi, insomma, volendo, non è difficile reperire l'album, insomma, originale, o se è una web radio che vuole le tracce, insomma, basta ormai la rete ci mette in connessione con tutto il mondo. Certamente, guarda. Basta un messaggio su Facebook e nei 2 giorni c'è il CD a casa. Certamente, guarda. Io dico sempre alle band: se volete mandarmi un MP3 va benissimo, se poi volete anche portarmi il CD o ben volentieri. Noi non è che lo pretendiamo, nel senso, se è una cosa che senti di fare, ben volentieri. Certo. Da parte mia è come ricevere il regalo di Natale, insomma, perché un CD è sempre bello. Quelli della mia generazione, quelli della tua, sono nati con il vinile, con 45 giri, con la cassetta, per cui per noi avere il disco fisico è una cosa, soprattutto per me che all'epoca, quando avevo, insomma, 15-16 anni, non potevo permettermi tanti dischi. Certo. Quindi andare a comprare un CD costava 12.000 lire, 13.000 lire, 15.000 lire. Era un investimento. Adesso che ti arriva in CD, magari io ho sempre la gioia di scartarlo, di guardarlo. Certo. Altri dicono: vabbè, i CD sono morti, facciamo tutti MP3, si fa prima. No. Poi vabbè, noi abbiamo questa cosa che, essendo web radio, dobbiamo digitalizzare gli MP3, giustamente. Certo, certo. Vabbè, però insomma, comunque la mia non era una critica, il fatto no, ma scherzi, ci mancherebbe. Il problema è che sai, ogni generazione purtroppo ha un suono, sua modifica. Come dire, no, le vecchie generazioni avevano 78 giri, mm-hmm. quindi magari dicono: ah, ma 78 giri era il formato migliore. Noi diciamo: no, il CD è il formato migliore. C'è sempre questo scontro generazionale tra chi era prima di noi, certo, e chi sarà dopo di noi, no? Sì. Beh, la compressione su alcune cose, voglio dire, io ho raffrontato, no? Ad esempio, il vinile di Tunnel of Love con il CD, insomma, il sound è più caldo realmente del vinile rispetto al CD, però non si può avere tutto. Lì, soprattutto sul CD, la praticità dell'uso. Ad esempio, un musicista manda indietro 50 volte col telecomando, ristudia quella frase. E ribadisco il fatto della copertina, che è importante. Negli anni 70 la musica prog c'era proprio chi di mestiere faceva quello, e il booklet, non ultimo, che ti aiuta a capire quello che succede. Esatto, ma poi anche quando tu ascoltavi il disco, avevi la copertina, te la leggevi, certo, i testi, cioè facevi un trip, dovevi comunque per forza ascoltare, non c'era il tasto skip, dovevi ascoltare tutto il disco, certo, qui passavi delle giornate intere a leggere i testi, cioè c'era un rituale che ti faceva, voglio dire, comprendere il disco a pieno, cosa che oggi con il tasto skip o col tasto premi 2 andiamo troppo di corsa oggi. È quello il discorso, mangiamo troppa musica e la bruciamo. Non so, dischi come, parliamo ancora di dischi come The Dark Side of the Moon dopo 40 anni, dischi che vengono fuori oggi dopo 2 mesi sono già fuori dal mercato o fuori dalle recensioni o fuori dalle promotion. Tanto lo nomineremo poi nella fatidica domanda dei dischi. Allora, adesso portare. Cosa vuoi che mettiamo su? Il Re del Terrore? Sì, perché possiamo spendere 2 parole su questa cosa? Sì, velocemente. Poi velocissimamente, da poco sto in contatto con un club di Diabolic su Facebook che dovrebbe organizzare un raduno credo nella zona di Torino, in un locale dove noi forse potremmo andare e suonare, perché il Re del Terrore parla di Diabolic. Perfetto. Quindi, vestiti da Diabolic. Ma e chi fa il vacante? Quello è il problema. Io facciamo fare Emanuele, che è biondo. Ecco allora. Ok, Re del Terrore, Andrea Salini. Del mattino sulla strada corre 5 in allarme alla stazione, le volanti vanno a 1000. Chi sarà? fuori per rimeso, fino al porto 200 all'ora, il metro notte si piscia addosso. Chi sarà? Rieccoci qua, il re del terrore Andrea Salini, tratto dal disco Maestrale. Esatto. Abbiamo parlato che si parlava di Diabolik, no? Sì. E a tal proposito, a microfoni spenti, si parlava appunto del film di Mario Bava. Sì, perché qui ritorniamo a quella circolarità dell'arte che ci rimanda un po' pure alla cultura dei Pelle Rossa, no? Escludevano ogni forma quadrata. E quando c'è un'idea, se la insegui, ti porta a scoprire che quel film c'era la colonna sonora di Morricone, che c'era Adolfo Celi, che da piccolo l'avevi visto in Sandokan, e dici, ecco, oppure in Amici Miei. Noi abbiamo un gruppo su Facebook con i musicisti della band e le rispettive mogli, che si chiama Amici Miei, e con tutti gli aneddoti del Mascetti, perché poi... E lì nasce, noi abbiamo un linguaggio, ti posso raccontare un aneddoto velocissimo. Sì. Quando stavo ancora all'Università della Musica, ho frequentato un workshop importante con Andy Timmons, Guthrie Govan, Carl Verheyen, e stavo a contatto con dei musicisti, tra cui uno, ci siamo rimasti amici, Ciro Manna, un bravissimo musicista, che poi adesso collabora anche con la Rai, credo, o Mediaset, insomma. E mi ha raccontato che in Sicilia, nella zona di Napoli, esiste un linguaggio che si chiama parlesia, cioè un linguaggio che capiscono solo i musicisti. E così noi nel nostro slang, nel nostro linguaggio, abbiamo una sorta di codice, e se uno dice una parola significa che è stanco, che non ce la fa più, che è ora di andare a letto, che le prove è meglio rimandarle, perché se citano la supercazzola, tu vai in un posto, capito? E trovi uno che ti piglia in giro, gli fai la supercazzola, e così tutta la parte faticosa della musica, i viaggi, le trasferte diventano molto più gradevoli, perché c'è sempre l'ironia, c'è sempre, perché dai film come Adolfo Celi, abbiamo detto, no? Da lì siamo andati a finire a Sandokan, alla colonna sonora che c'è quel bel giro del basso, e tutto un giro di cose che uno basta che sta un po' con gli occhi aperti e che c'è la curiosità. E quello è importante, perché nella musica a volte non c'è curiosità, spesso le vecchie generazioni vanno sempre addosso alle nuove generazioni, no? Ma a volte bisognerebbe ricordare, no, alle vecchie generazioni, che a sua volta le generazioni prima di loro dicevano la stessa identica cosa. Quindi è un po' come dire, no, stanno invecchiando e non si rendono conto che adesso stanno facendo loro la parte di quelli che erano una volta in Matusa. Parlavamo prima, no, di Rob Halford, il fatto che lui, pur essendo un'icona dell'heavy metal, stia sempre in continuo aggiornamento con la musica di oggi. Certo. Perché lui ha detto che invecchiando si diventa un po' più cinici. Anche più egoisti. Esatto, comunque più pessimisti, no? Perché sai, hai passato la tua vita e cominci ad avere un momento... tra l'altro, parlando con un amico giornalista, cerco anch'io di essere un po' breve, lui diceva, no, che dai 15, c'è uno studio psicologico che dai 15 anni ai 30 anni vivi le tue più grandi emozioni della vita. Poi dai 30 in poi cominci, no, ah, ma quando ero giovane io e via, sì, a ripetere un po' certe tipo di emozioni. Quindi è un po' una sorta di cerchio della vita, anche qui un discorso circolare che parlavi prima, no, degli indiani d'America, che non guardano al discorso quadrato, ma a un discorso circolare della vita. Esatto, del pensiero. Del ecco, modo. Allora, vuoi farci un pezzo acustico? Intanto andiamo avanti. Guarda, poi concludiamo, insomma, con le ultime domande. Mi piacerebbe fare un pezzo sempre in inglese, però tratto sempre dal primo album, perché denota tutte le cose che abbiamo detto. Il brano si chiama Fight After Fight, e se anche c'è, questo è stato voluto, se anche c'è un'armonia sugli accordi maggiori, c'è una sorta di malinconia, nel senso che quello che ci ha toccato fin oggi, quello che ci ha riguardato, ci ha abituato ad essere sempre in lotta, che alla fine questo, quello di cui dicevamo prima, questo resistere, è diventato la normalità. E quindi questo... fight after fight, questa lotta dopo lotta, è annunciato con una sorta di calma, quasi di rassegnazione, come di, tanto è così per noi. E quindi qui, in questo caso, se vogliamo citare le fonti, c'è, viene fuori Bob Dylan, rimandato nello scaffale dei CD dalla biografia di Hendrix, quello di cui parlavamo. Quindi All on the Watchtower. Sì, nel senso che ti piace un artista e studiando il profilo di quell'artista capisci che per lui è stato importante un altro artista, e allora tu, ecco, io ho detto tra forse me... più di un artista anche a volte, esatto, insomma, sicuramente molti grandi musicisti hanno delle discografie io... molto piene, ne parlavamo prima, insomma, ecco, anzi sono i primi che ascoltano sempre questo mio amico giornalista ha detto che molti musicisti ascoltano musica superiore a quello che creano loro, questa è la sua impressione, poi magari ma un'idea che insomma vale la pena esaminare. Io nel mio piccolo dico, se Hendrix nell'Electric Ladyland ha messo una cover di Bob Dylan, magari io in un album mio potrei mettere una cover di Jimi Hendrix un giorno, ecco, chi lo sa. E quindi andiamo a provare a rappresentare questo brano che si chiama Fight After Fight. Ok. Room after room, cold after cold, fight after fight, the game is in the town. Run your black shadow, your own dream is in the river. molto Tom Waits, un pochino anche, questa atmosfera molto oscura. Sono un grande fan di Tom Waits. Ecco, si sente anche nelle tue canzoni. Allora, giochino adesso siamo, no? Visto che su Facebook impazzano le classifiche, in realtà poi noi facciamo il giochino dei tre dischi da portare sull'isola deserta. Sicuramente The Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? Poi direi Dark Side of the Moon e, diciamo, dei Rainbow, diciamo Rising. Mm, ottimo. Quello dove c'è Tarot Woman, Starstruck, Stargazer. Sì, diciamo uno dei dischi classici dei Rainbow con Ronnie James Dio, perché poi è arrivato Graham Bonnet. Sì. E stranamente hanno avuto anche un successo con il disco Down to Earth, dove c'è Since You Be Gone, che fu uno dei grandi... Un disco più radiofonico sicuramente rispetto... Se tu ascolti Stargazer al buio, vicino in un posto dove vivo io, dove la notte è notte, che non ci sono le luci delle città, è dura, cioè, immagino, fa paura. Sì. Ok, allora, idee, progetti futuri per quel che riguarda la tua carriera musicale, prossimi lavori musicali tuoi? Guarda, diciamo che durante tutta l'estate c'è stato un lavoro di ascolto di dischi nuovi per me e un impegno su alcuni aspetti della letteratura, diciamo Ferlinghetti o altri autori italiani, quindi una preparazione per il nuovo album. C'è anche qualche idea armonica, qualche stralcio di qualche riff, qualche brano abbozzato. E il prossimo album per me sarà, insomma, lo accennavo ad Alberto Prisco come piccolo scoop tra di noi, perché non è che di quello che faccio io se ne parla solo Rolling Stone o altrove, però la novità c'è, anche se è una cosa piccola, no? Quindi la sfida è quella di toccare un terreno musicale che io conosco poco, che è quello della musica rock tra virgolette moderna, nel senso degli arrangiamenti e dei suoni, quindi parliamo di REM o 2 o Radiohead, quindi tuffarmi in un mondo che conosco poco. Sono convinto che l'esperienza accumulata fino ad oggi restringa il tempo di assorbimento di quello che c'è buono in quella musica, però poi bisogna vedere se realmente riusciamo a creare qualcosa che ci abbia quell'impronta, però originale. Quindi perché il classic rock, ecco, Tom Waits, ma anche nei libri, nei film che ha fatto con Benigni, o mi sembra Rusty il Selvaggio faceva il barista, no? E Rain Dogs o Trombone, Pesce e Spada, cioè quella cosa lì c'è, ce l'hai dentro, è bello provare, uscire. È come quando un giorno dici, adesso ho portato la giacca di pelle nera 20 anni, provo a mettermi una giacca colorata, anche perché sennò poi diventa quasi una divisa obbligatoria, invece se tu ci sei in quel modo non è che lo devi ostentare neanche nel modo di suonare, provi, poi non è, magari io penso che nella discografia di qualcuno ci deve essere anche un disco brutto, perché se ne deve parlare, ah, quello più fiacco. Sì, tipo Neil Young, quando ha avuto, insomma, un po' una... Ma io penso un po' tutti, non c'è una band che non ci ha avuto qualche disco un po'. Sì, sì, beh, logicamente, no? Si parla adesso... tanto di, ad esempio, di Radiohead, no? di In Rainbows, che, insomma, al di là del fatto che ha avuto gli MP3 gratuiti per un certo periodo, ma poi sostanzialmente torni sempre ai dischi precedenti. Io leggevo di alcuni album di Lou Reed che all'inizio erano passati in sordina, poi magari fra 20 anni diventa il capolavoro, io di... La musica poi c'è. Perché poi i giornalisti devono sempre scrivere, sì, no? Sì, sul, sì. Io adesso non è che non me la voglio tirare da solo, però nel senso che il progetto è questo: fare un album dove non compare l'Hammond o la marimba o il violino o la musica folk, incentrato sulla chitarra, suoni moderni, idee nuove per me, e parallelamente quel progetto di cui parlavamo, della retrospettiva su Hendrix da proporre alle radio. Speriamo che Maurizio Calzavara, Alberto Prisco, anche tu ritroviate una dimensione di radio anche più canonica e che ci avrete la pazienza, magari con i tappi alle orecchie, di ospitarci così. Addirittura. E magari, ecco, quindi questo è un progetto che cammina piano piano, perché questa retrospettiva su Hendrix, però gli sforzi sono sul nuovo album, e per il quale ho deciso di prendermi anche più tempo per la pubblicazione. Va bene, insomma, Tra il primo e il secondo 2 anni, adesso già se nell'eventualità uscisse nell'estate ci avrebbe 2015, quindi 3 anni, però non voglio farlo con calma e farlo fatto bene, non deve diventare anche una cosa biblica, se no altrimenti poi non lo fa più. Spero da qui, insomma, prima che finisca il 2015, di riuscire a pubblicare un nuovo album con quelle caratteristiche di cui parlavamo poco fa. Va bene, dai. Allora, siamo quasi agli sgoccioli, no, con la puntata. Vuoi intanto ribadire dove si può trovare il tuo disco, insomma, i contatti Facebook, sì, sito ufficiale, email per contattarti? Sì, il contatto Facebook forse adesso è la cosa più immediata, perché da lì ti rimanda anche sul sito ci sono le email, quindi la procedura è una ricarica post-pay e il CD arriva con la posta prioritaria nel termine di 3 giorni lavorativi. Altrimenti è in vendita, acquistabile anche come singolo brano su iTunes e sui portali digitali più famosi. E altrimenti, per chi come te fa queste cose, contattando me o le persone che mi aiutano, perché a seguire i vari profili vengono inviate le tracce MP3 o quant'altro, insomma, o CD masterizzati, insomma, un incontro si trova. Se qualcuno è interessato, come noi altri ricerchiamo il CD che è andato fuori catalogo, questa è una cosa che, insomma, adesso con la rete è quello che ci mette più in contatto con tutti. Ok, oppure comunque ai tuoi concerti vuoi anche ricordare magari qualche data, visto che hai qualche fan che ti segue, sì, nelle tue zone? Le date previste dovremmo suonare a fine ottobre, credo il 25 ottobre, al Teatro Cursa, a Contigliano, credo, poi tutto da verificare, provincia di Rieti. Perfetto. Poi all'Aquila, in Abruzzo, credo il Birs il 1 novembre, sabato. Poi abbiamo un concerto il 6 dicembre all'Auditorium Varrone di Rieti e altre cose che ancora sono sulla carta. Quindi comunque al momento hai concerti solamente nella zona del Reatino? Per il momento sì, siamo in contatto anche con le persone che ci conoscono all'estero. Abbiamo ricontattato Josef Luzak di Radio Bunker, che ci ha detto: quando volete venite. Perfetto. Stiamo aspettando di portare qualcosa di nuovo, e degli amici che ci abbiamo a Londra, e non ultimo il tentativo di organizzare un tour, diciamo, su ruota, che possa toccare l'Austria o la parte meridionale della Germania. Il lavoro è continuo da parte nostra. Perfetto. Visto che ci stanno seguendo anche dal sud Italia, dalla Puglia, dalla Campania, hai qualche idea, qualche piano di poter andare nel proprio sud? Per noi è un piacere suonare ovunque e comunque, specialmente dove incontri le persone comuni. Una volta leggevo un'intervista, non mi ricordo se dei Dick Dick o dei Camaleonti, che dicevano che c'è stato un periodo negli anni 80 che ci toccavano le piazze più scadenti. Quella cosa a me ha fatto proprio male, perché adesso non mi ricordo bene la band, non voglio far qui il giudice. Però invece noi ci è capitato per esempio una volta di suonare a Casal Boccone a Roma, in un condominio occupato. Abbiamo suonato davanti a 200 persone, di cui degli italiani ce n'erano un 10%, e quelle persone che non c'avevano niente, vedevo il concerto di Natale, gli è stata una cosa... Quindi l'incontro con le persone, quello è la cosa più bella, lo scambio che c'è, perché poi noi non è che siamo gli Iron Maiden che dopo il concerto prendiamo l'elicottero, noi posata la chitarra scendiamo e ci mettiamo a raccontare, e magari il tizio c'ha i problemi che c'hai tu, studia, è cassa integrato, è precario, quindi la musica, come ci ha portato qui a incontrare te, domani ci porterà in giro per strada, e non ultimo ci piacerebbe di suonare anche in Sicilia, in Sardegna, in Tunisia, dovunque ci sia un palco, ecco, insomma, un microfono. Quindi sei comunque aperto anche alla possibilità di suonare. Non è semplice suonare al sud, perché ahimè non per le persone, spesso non ci sono le strutture o non c'è interesse perché ci sono altre cose, ma basta guardare anche i tour di gente famosa, non è che c'hanno poi tutte queste grandi date. Springsteen, quando è andato a Napoli, poi c'è stato un casino pazzesco. Peccato però, perché il bello sta anche lì. L'Italia è ricca di tante cose. Forse non abbiamo le strutture, non riusciamo. Viene a fare un concerto in Puglia, ti diamo da mangiare e da bere, una giornata al mare, io ci vado anche gratis. Ecco, Marta, hai sentito cosa dice Andrea? Insomma, magari se poi lo vuoi contattare via Facebook, visto che... Veramente, eh? Loro hanno chitarali, hanno, insomma, buoni prodotti pugliesi. Ma noi ci basta già vedere il mare, il sole. Ecco, molto bene, va bene. Una terra nuova. Ecco, infatti Fibi dice, benissimo, al sud non viene nessuno, lei che è di Napoli... Noi fatichiamo anche a trovare i locali, eh. Immagino, questo sia mal comune mezzo gaudio, succede in tutta Italia, Sì. Ma la zona di Napoli c'ha dei musicisti fenomenali in ambito rock, anche io ho visto i concerti di Capuano, di Gianni Bennato, di Edoardo Bennato, conosco quella realtà, c'è un amico con Ciro Manna che credo sia a Caserta. È difficile inserirsi, perché il pub di Napoli cerca di chiamare la band locale, capito? Diventa una questione di conoscenze. Ecco, magari la signora che sta lì conosce un pub, dice: guarda, ci sono dei ragazzi, organizzi la serata. Noi partiamo come l'armata Brancaleone col furgoncino e si va, insomma, non è... Questo è il nostro spirito da sempre. Ecco, Fibi scrive, poi anche 5 euro di entrata fa stare a casa i napoletani. Ha detto di più. Va bene, dai. Allora, intanto vogliamo chiudere la puntata. Intanto ringraziamo Fibi, Screech, Marco e... aspetta che dobbiamo guardare, Marco e Daniele, Davide che ci ha ascoltato da Milano, poi altre persone insomma che ci stanno ascoltando, Marta che ci sta ascoltando dalla Puglia, insomma un po' tutti quelli che ci state seguendo sia dalla chat e anche voglio dire fuori dalla chat, solamente in streaming. Ringraziamo Roy che dall'Inghilterra ci ha ascoltato per un pochino, insomma vi rimandiamo. Allora, la prossima settimana intanto Gianluca su Rock Selection fa pausa per una settimana, non sarà in onda mercoledì, sarà in onda il giovedì, però non a Rock Web Radio. Poi ci rivediamo dal mercoledì successivo e state attenti perché con la redazione di Rock Web Radio stiamo lavorando, in particolar modo Simonessa, per quel che riguarda nuove interviste ad ottobre. Per cui state attenti perché insomma sulla pagina di Rock Web Radio, sul profilo di Rock Web Radio, ci saranno, voglio dire, gli aggiornamenti per quel che riguarda le prossime interviste e le prossime puntate. Chiudiamo con un pezzo in acustico. Vuoi chiudere in acustico? Vuoi che facciamo un strumentale homeboy tratto dal disco? Come vuoi? Sì, se mandi un boy. Perfetto, allora. Che è una pellicola di Mike Sorensen dove recita Mickey Rourke e la colonna sonora è di Eric Clapton. Questo lo dico per gli appassionati di quel genere. Questa è una storia drammatica di un pugile. La musica è bellissima. C'è anche un tentativo di rifare l'inno americano un po' così stordito. E vale la pena ascoltarlo perché l'arrangiamento è veramente curato e lì ho suonato la chitarra acustica insieme a Francesco Caporetti, abbiamo fatto un lavoro proprio in sintonia e ne vado molto fiero di quella canzone. Ecco, intanto qui vi ringraziano dalla chat, dico bravi, grazie a voi ragazzi. Fibi dice, non so, un locale dove si può suonare, forse solo l'ex Hard Rock Café, ha detto lei. Poi magari. Ecco, va bene, comunque. Io ti ringrazio, ringrazio anche i tuoi collaboratori che sono venuti qui ad accompagnarti fin qua su, dalla provincia di Rieti fino alla Bassa Veronese. Ti aspettiamo per il prossimo disco, assolutamente, insomma, quando avrai la possibilità. Fibi ti dice, nonostante che non sono fan del genere vostro, fatemi sapere che venite, io vengo sicuro. Tu vieni a sentirti in concerto, magari se vai a Roma, nella zona, oppure nel Reatino, vai a vedere insomma Andrea nei concerti che magari lui ha detto, ma comunque se lo contattivi Facebook poi ti dirà, perché insomma come dice anche lei, la musica da vivo è un'altra cosa, è vero. È andato a Roma a vedersi i Rolling Stones. Beh, insomma, bello. Voglio dire, è stata una bella esperienza, mi ha detto. Assolutamente. Va bene, dai, allora ci rivediamo tra 15 giorni per quel che riguarda Gianluca su Rock Selection. Con Davide ci rivediamo in futuro per il tuo nuovo disco. Ti aspettiamo qui a Rock Web Radio e intanto chiudiamo la puntata ringraziandovi. L'ultimo brano è appunto Homeboy, l'hai già spiegato tu. Che dire? Ciao e grazie, è stata veramente una bellissima puntata. Ciao! Thank you.